Ad alta voce. Tommaso Ragno legge Dracula di Bram Stoker. Traduzione di Rosanna Pelà. Diario di Mina Murray, 24 luglio, Whitby. Lucy è venuta a prendermi alla stazione, più tenera e deliziosa che mai, e insieme siamo andate alla casa sul Crescent, dove esse hanno un appartamento. È un sito incantevole. Il piccolo fiume Esk scorre in una profonda valle che si allarga nelle vicinanze del porto ed è sovrastata da un grande viadotto con alti piloni attraverso i quali la vista sembra estendersi più ampia di quanto non sia in realtà. La valle è stupendamente verde, è tanto erta e stretta che dall'alto di un versante si vede davanti l'altro, e per scorgere il fondo bisogna spingersi sull'orlo a guardare verso il basso. Le case della città vecchia, dalla parte opposta a quella che abitiamo noi, hanno tutti i tetti rossi e sembrano ammucchiate una addosso all'altra, come le stampe di Norimberga. Sopra le città vi sono le rovine dell'abbazia di Whitby, che fu saccheggiata dai danesi e che fa da sfondo alle scene del Marmion, in cui la ragazza viene murata viva. Sono resti nobilissimi, di dimensioni immense, e piene di punti belli e romantici. Secondo una leggenda, a una delle finestre appare una dama bianca. Tra le rovine dell'abbazia e la città sorge un'altra chiesa, quella parrocchiale, intorno a cui c'è un grande cimitero zeppo di pietre tombali. E questo, a parere mio, il posto più bello di Whitby, perché si estende sopra la città e offre una vista completa del porto e di tutta la baia fino al promontorio chiamato Kettleness, e che si protende nel mare. La scarpata, che scende ripidissima sul mare, è in parte crollata, distruggendo alcune tombe. In un punto certe lastre tombali sporgono sopra il sentiero sabbioso sottostante. In tutto il cimitero vi sono viottoli fiancheggiati da panchine dove la gente sosta in ogni ora del giorno a vedere il bel paesaggio e a godersi la brezza. Ho intenzione di venire molto spesso anch'io a sedermi qui a lavorare. Veramente ci sono anche adesso. Scrivo con il mio quaderno sulle ginocchia e ascolto le chiacchiere di tre vecchi seduti accanto a me. Si direbbe che in tutto il giorno non facciano altro che stare qui a chiacchierare. Sotto di me c'è il porto, dalla cui estremità parte un lungo muro di granito che si spinge nel mare, terminando in una curva verso l'esterno. A metà c'è un faro. Questo molo è protetto da una poderosa barriera. Dall'altra parte il muro forma un gomito piegato in senso opposto, al termine del quale sorge un altro faro. Tra i due moli c'è una stretta apertura di accesso al porto che poi subito si allarga. È molto bello con l'alta marea, ma quando la marea si ritira non restano che bassi fondali e soltanto l'Esk scorre tra banchi di sabbia frammezzati da qualche roccia. Fuori dal porto, da questa parte, si drizza una grande, aguzza scogliera che si prolunga per circa mezzo miglio partendo da dietro al faro meridionale. Al termine della scogliera c'è una boa con una campana che con il cattivo tempo suona e diffonde nel vento i suoi lugubri rintocchi. Una leggenda locale dice che quando una nave affonda, sul mare si sentono campane. Bisogna che lo chieda al vecchio che sta venendo verso di me. È un vecchio bizzarro. Deve essere vecchissimo, perché il suo viso è grinzoso e contorto come la corteccia di un albero. Mi dice di avere quasi 100 anni e che era marinaio della flotta da pesca della Groenlandia al tempo della battaglia di Waterloo. Deve essere, credo, un uomo molto scettico, perché quando l'ho interrogato sulle campane in mare e sulla dama bianca dell'abbazia mi ha risposto bruscamente: «Robe che non starei a badarci tanto, signorina, robe fritte e rifritte. Mica voglio dire che non ci sono mai state, dico che ai miei tempi non c'erano». storie che vanno benissimo per quelli che vengono qui in gita, per i viaggiatori di commercio e gente del genere. E mica per una signorina simpatica come voi. Quelli che capitano qui a piedi da York e da Leeds, sempre a rimpinzarsi di aringhe affumicate, a bere tè e a cercare di comprare cianfrusaglie per 4 soldi, quelli ci credono. Ma chi ci interessa, mi domando, di raccontargli queste balle? Neanche i giornali ne contano tante. Ho pensato che fosse una persona dalla quale avrei potuto imparare cose interessanti. E gli ho chiesto se non volesse raccontarmi qualcosa sulla caccia alle balene nei vecchi tempi. Si preparava a farlo quando l'orologio ha suonato le 6 e l'uomo, alzandosi con fatica, ha detto: «Adesso bisogna che trotto a casa, signorina. Alla mia nipote non piace aspettare quando è pronto il tè. E io impiego tanto tempo a trascinarmi sulla strada che ce n'è mica poca. E poi, signorina, a quest'ora mi sento un buco nello stomaco». Se n'è andato barcollando e vedevo che cercava di affrettarsi come poteva sui gradini. La scalinata è una delle caratteristiche salienti del luogo. Conduce dalla città fino alla chiesa con centinaia di gradini, non so quanti siano, e si incurva lievemente. E l'inclinazione è così dolce che un cavallo potrebbe percorrerla con facilità in salita e in discesa. Penso che in passato fosse collegata con l'abbazia. Ora tornerò a casa anch'io. Lucy è andata a casa con sua madre a trovare dei conoscenti e io non mi sono unita a loro, perché si trattava di semplici visite di cortesia. A quest'ora sarà a casa. Primo agosto. Sono salita quassù un'ora fa con Lucy e abbiamo avuto un'interessantissima conversazione con il mio vecchio amico e 2 altri che vengono sempre a raggiungerlo. Evidentemente egli è un oracolo per loro e io penso che ai suoi tempi il vecchio sia stato un personaggio molto dittatoriale. Non ammette mai niente, contraddice tutti e quando non riesce ad avere la meglio li bistratta. Poi prende il loro silenzio per un consenso. Lucy era incantevole, nel suo abito bianco da giardino. Da quando è qui ha un bellissimo colorito. Ho notato che i vecchi, senza perdere tempo, sono venuti a sedersi vicino a lei. È molto gentile con le persone anziane. E certo, tutte si innamorano immediatamente di lei. Ne è stato sedotto anche il mio vecchio. E non l'ha contraddetta, ma in compenso ha raddoppiato la dose con me. L'ho portato sull'argomento delle leggende. E lui si è lanciato in una specie di sermone. Voglio cercare di ricordarlo e di trascriverlo. Tutte storie, tutte balle, ecco cosa sono. Un mucchio di panzane su fantasmi e spettri e spiriti maligni e tutto quanto, roba buona solo per donnette e bambini, bolle di sapone, nient'altro. Ma che segnali, allarmi e ammonimenti? Tutte invenzioni di preti e matti e viaggiatori di commercio per far paura alla gente e farci fare cose che se no non le farebbero mica. Mi viene la rabbia solo a pensarci. E poi, come se non ci bastasse stampare bugie sui giornali e predicarle dal pulpito, no, anche sulle tombe le vanno a mettere. Guardate un po' qui intorno, dove vi pare? Tutte queste pietre che tirano su la testa orgogliose come che possono, invece cascano giù sotto il peso delle balle che ci sono scritte su. Per esempio, qui giace il corpo, o sacro alla memoria. C'è scritto su tutte, ma neanche nella metà c'è dentro un corpo. E della loro memoria a nessuno gli importa nulla, altro che sacro, solo bugie, nient'altro che bugie in un modo o nell'altro, mio Dio. Che bella scena che sarà il giorno del giudizio, quando verranno su traballando nei loro sudari, tutti quanti insieme, cercando di trascinare con sé le loro pietre tombali per dimostrare come erano buoni. E certi cascheranno e tremeranno con quelle mani scivolose, perché sono state troppo in mare e non ci riusciranno neanche a tenerle le pietre. Diario del dottor Seward, 5 giugno. Il caso di Renfield Diventa sempre più interessante a mano che comincio a capire l'uomo. In lui certe caratteristiche sono molto sviluppate: egoismo, riservatezza e determinazione. Mi piacerebbe comprendere quale sia l'oggetto di tanta determinazione. Sembra avere un suo programma preciso, ma ancora non so quale sia. Una qualità lo riscatta, ed è l'amore per gli animali, che tuttavia assume qualche volta forme molto strane, tali da farmi sospettare che l'individuo sia soltanto di una normale crudeltà. I suoi favoriti sono di genere bizzarro. Ora, il suo passatempo preferito è di acchiappare mosche, e ne ha talmente tante che io ho dovuto protestare. Con mia grande meraviglia non si è infuriato, come prevedevo, ma ha preso la cosa con calma e serietà. Dopo aver riflettuto per un momento, ha chiesto: «Posso avere 3 giorni? Le farò scomparire tutte». Naturalmente gli ho risposto di sì, ma lo devo sorvegliare. 18 giugno. Adesso si dedica ai ragni e ne ha parecchi esemplari molto grossi che tiene in una scatola. Li nutre con le sue mosche, il cui numero è sensibilmente diminuito, sebbene continui a usare metà delle sue razioni alimentari per attirare mosche nella sua stanza dall'esterno. 1 luglio. I suoi ragni stanno diventando altrettanto molesti delle mosche e oggi gli ho detto che se ne deve sbarazzare. È parso molto rattristato, ma allora io ho specificato che doveva eliminarne almeno alcuni. Ha consentito allegramente e io gli ho concesso lo stesso periodo di tempo che gli avevo dato per le mosche. Ma poi mi ha disgustato molto quando un orrendo moscone, gonfio di cibo marcescente, è entrato ronzando nella stanza e Renfield l'ha acchiappato e per pochi istanti l'ha tenuto tutto esultante tra il pollice e l'indice, ma prima che io mi rendessi conto delle sue intenzioni se l'è ficcato in bocca e l'ha inghiottito. Ai miei rimproveri ha ribattuto tranquillamente che il moscone era buonissimo e salutare, che era vita, vita vera, e dava vita a lui. Questo mi ha fatto venire un'idea, o almeno un'idea in embrione. Devo vedere come si sbarazzerà dei ragni. Evidentemente c'è nel profondo della sua mente un problema che lo occupa, perché tiene un piccolo taccuino su cui seguita ad annotare qualcosa: intere pagine, zeppe di cifre, in generale singoli numeri sommati a gruppi, anche i totali sono sommati a gruppi, come se cercasse di fare quadrare un rendiconto, direbbe un contabile. 8 luglio. Nella sua follia c'è metodo. E la mia idea rudimentale sta prendendo corpo. Presto sarà un'idea ben definita e allora, inconscia attività cerebrale, dovrai cedere il posto alla tua conscia sorella. Sono stato lontano dal mio amico per un po' di giorni, in maniera di poter notare eventuali cambiamenti. Le cose sono rimaste come erano, tranne che si è liberato di alcuni dei suoi animaletti preferiti e se n'è procurato uno nuovo. È riuscito a catturare un passero e l'ha già in parte addomesticato. Il suo modo di farlo è semplice. I ragni sono infatti diminuiti. Quelli che rimangono, tuttavia, sono ben pasciuti, perché egli seguita a catturare mosche tentandole con il suo cibo. 19 luglio. Si stanno facendo progressi. Il mio amico possiede ora un'intera colonia di passeri e ragni e mosche sono quasi scomparsi. Quando sono entrato, mi è corso incontro dicendo che voleva domandarmi un grande favore, un grande, grandissimo favore, e parlandomi mi scodinzolava intorno come un cagnolino. Richiesto di che cosa si trattasse, ha risposto con una sorta di rapimento nell'espressione e nella voce: «Un gattino! Un bel gattino, un micetto morbido e giocherellone, per poter giocare con lui e insegnargli e nutrirlo. Non ero impreparato a una richiesta di questo tipo, perché avevo osservato che i suoi animaletti seguitavano a crescere di misura e vivacità, ma non volevo che la sua bella famiglia di passeri addomesticati facesse la fine dei ragni e delle mosche. Quindi gli ho risposto che ci avrei pensato e gli ho chiesto se non avrebbe preferito un gatto a un gattino. Lo ha tradito il suo entusiasmo nel rispondermi. Oh sì, che mi piacerebbe un gatto. Ho domandato un gattino soltanto per timore che mi rifiutaste un gatto. Ma nessuno mi negherebbe un gattino, vero? Scrollando il capo gli ho detto che per il momento reputavo non fosse possibile. Ma che ci avrei pensato? La sua faccia si è incupita e io vi ho colto un avvertimento di pericolo, perché d'un tratto mi ha lanciato uno sguardo obliquo e feroce. È un segnale di morte. Quest'uomo è affetto da una mania omicida non ancora sviluppata. Terrò sotto osservazione questa sua nuova bramosia per vedere che forma prenderà. E così ne saprò di più. Ore 22. Sono andato a vederlo di nuovo e l'ho trovato seduto in un angolo, immusonito. Quando sono entrato si è gettato in ginocchio davanti a me implorandomi di fargli avere un gatto. La sua salvezza, diceva, dipendeva da questo, ma io sono stato fermo e gli ho detto che non poteva averlo. Su questo si è alzato per tornare a sedersi nell'angolo dove era prima, rodendosi le dita. Tornerò a visitarlo domani mattina presto. Luglio. Ho visitato Renfield molto presto, prima che l'infermiere facesse il suo giro. L'ho trovato in piedi. Canticchiava e stava spargendo lo zucchero che aveva messo da parte sul davanzale della finestra. Evidentemente intendeva riprendere la sua caccia alle mosche e lo faceva in allegria e con buona grazia. Mi sono guardato in giro, in cerca degli uccelli, e non vedendoli, gli ho chiesto dove fossero. Senza voltarsi, Renfield mi ha risposto che erano volati tutti via. C'era qualche penna, sparsa per la stanza. E una macchia di sangue sul cuscino. Non ho detto niente, ma uscendo ho raccomandato al sorvegliante di avvertirmi se avesse notato qualcosa di strano in lui durante la giornata. Ore 11. L'infermiere è appena venuto a dirmi che Renfield si è sentito molto male e ha vomitato una quantità di penne. Per me, mi ha detto, si è mangiato i suoi uccelli buttandoli giù crudi. Ore 23. Questa notte ho somministrato a Renfield un potente sonnifero sufficiente a farlo dormire profondamente e ho preso il suo taccuino per esaminarlo. Il pensiero che mi ronzava per la testa ultimamente si è sviluppato e la teoria è dimostrata. Il mio è un maniaco omicida di un genere speciale. Dovrò inventare una nuova classificazione per lui e definirlo un maniaco zoofago, mangiatore di esseri vivi. Egli vuole ingerire quante più vite gli sia possibile e si è prefisso di farlo in una maniera cumulativa. Ha dato molte mosche da mangiare a un ragno e molti ragni a un uccello. E poi voleva un gatto che mangiasse molti uccelli. Quale sarebbe stata la sua mossa successiva? Quasi sarebbe valsa la pena di completare l'esperimento. E si potrebbe farlo se ci fosse un motivo sufficiente. Gli uomini si facevano beffe della vivisezione, ma guardiamone i risultati di oggi. Perché non fare progredire la scienza nel suo aspetto più difficile e più vitale? La conoscenza del cervello. Se io arrivassi a capire il segreto di una di queste menti, se trovassi la chiave delle fantasie di un solo pazzo, potrei fare avanzare il ramo della scienza a cui mi dedico fino a un punto, a paragone del quale la fisiologia di Burdon Sanderson o la conoscenza del cervello di Ferrier non sarebbero nulla, se soltanto ci fosse un motivo sufficiente. Non ci devo pensare troppo perché potrei essere tentato. Una buona causa potrebbe mutare la mia situazione. Non potrei essere dotato anch'io, per natura, di un cervello eccezionale? Come ragiona bene quest'uomo? Ma i pazzi lo fanno sempre nel loro campo. Mi domando quante vite valga un uomo, a suo parere, o se ne valga una sola. Renfield ha chiuso il conto con la massima accuratezza e oggi ha cominciato una nuova registrazione. Quanti di noi cominciano una nuova registrazione in ogni giorno della loro vita?